Antonio è in casa, a pochi passi da lei. È suo marito. E un broncio fra sposi non conta. Capirà. Torneremo insieme. Mi amerà di più. Ma la luce del giorno le rende i suoi diritti e il suo orgoglio. Antonio deve piegarsi senza esserne pregato. Chi è lui? Chi sono io? Bisogna stare in sossiego chi non vuol perdere dignità. Giungono quei signori, la trovano vestita galantemente e alla moda ultima. L'abito bianco di Antonio è un'anticaglia, un piglio da regina. Vostra Eccellenza, signor Marchese, si fidi di questa donna, resterà servito da par suo. Francesco, presente e ufficioso, giubila. La commissione del Marchese, che ha galleria dei primi pittori, è la chiave del successo. Già vede questo ritratto, nero e bianco, il partito di luce fiero e la pennellata sprezzante, la lattuga sul collo asciutto, fresca come un giglio. Così si dipingono i re, gli imperatori. Cosa giochiamo che fra un anno una corte ti domanda? Pensa di dirle quando saranno soli. E intanto gode di quella grazia franca e ardita con cui la sorella motteggia. Povera figlia, se lo meritava dopo quel che ha passato, sempre avvilita e laboriosa. Così ragiona il buon fratello, che non è un marito e neppure un padre e non ammette le ingiustizie. Di là, intanto, chi è di là? Un gran tonfo e precipitosi passi goffamente dissimulati, male si attribuiscono al servo balordo, che balordo non è. Anzi, affaccia il capo all'uscio e quasi ammicca, malizioso. Così Artemisia, a metà fra un inchino e uno sguardo altero, indovina che Antonio, non ancora uscito stamane, ha inciampato in un seggiolone, si è rialzato in fretta e via che fugge per non esser visto, come una bestia selvatica, capace di saltare per la finestra se mai fosse trattenuto. Impallidisce la donna e il cuore sdegnato palpita. Questo marito a me questo marito? In lei l'ira non fiammeggia più, ma brucia a fondo, brucia la stanza ricca, i broccati, la veste galante, il prestigio dei suoi quadri e quello dei due cavalieri. Questo incendio fuma e sa di cattivo. Il mondo da conquistare non vale l'impulso di correre, di fermare Antonio, scuoterlo, farlo parlare, piangere come una donnetta. Si volge, impetuosa, e inciampa anche lei nella propria gonna. Non siamo a Ripagrande, ci vuol più modi, più contegno, più pulizia anche. Scoppia la prima occasione che Antonio, seduto a tavola di faccia alla moglie, ma di malavoglia, tutto di traverso al suo solito, cincischia la carne sul piatto e non mangia, empiendosi la bocca e almanaccando con gli occhi socchiusi. Le sue mani appaiono sporche sul desco bianco, sporche ma leggere. Artemisia lo sa e se ne strugge come di una cosa perduta che quando carezzano son piume. A Ripagrande sporche non apparivano, anzi, sembrava che quel grigiore tra le piegoline delle nocche fosse un'ingiuria sopportata, un travestimento. Lei seguita a parlare, ad accusare, per non commuoversi, e alza la voce. E se l'ascolta, inorridendo, fra quelle mura che la stimolano alla crudeltà e al livore. Non ha casa il suo corpo giovane e perseguitato, non ha casa il suo spirito, che troppe volte non trova né condizione né tempo che lo esprima, e non può accettarsi né farsi accettare senza violenza e un infelice turgore per cui non era nato. Ecco che le parole si affollano, rimbalzano, ecco che Artemisia si alza, spinta alla catastrofe come un cavallo pazzo. Sta ritta, le mani calde afferrate all'orlo della tavola, chinata in avanti verso Antonio che non risponde. È lì quel viso divenutole tanto caro, è presente quella persona che non sa più dividere da sé, che mai consentirebbe a perdere suo marito. Ma la implacabile voce procede. Non può durare così, non può durare, mentre la lingua si secca e la saliva si fa amara. Stava Antonio con le mani sciolte sulle cosce e la testa inclinata sulla spalla. Un'attitudine di stanchezza estrema, gli occhi abbacinati di Artemisia lo minacciavano senza penetrarlo. Ma la sua palpebra destra tremò e fu come scrollasse